senti così, come se nulla fosse, fra i denti il pugnale di un addio. Sei proprio decisa, con i tuoi pugni chiusi, a cancellarmi dalla tua vita. Allora fallo, ti aiuterò a spingerlo dentro nel mio cuore. Squarciano in un ultimo abbraccio, finiscimi. Prendi il mio respiro in un ultimo fatale bacio. L'hai fatto davvero, hai affondato il tuo addio. A pugni chiusi mi hai già cancellato dalla tua vita. Se nulla fosse, fra i denti il pugnale di un addio. Sei proprio decisa, con i tuoi pugni chiusi, a cancellarmi dalla tua vita. Allora fallo, ti aiuterò a spingerlo dentro nel mio cuore. Squarcialo in un ultimo abbraccio, finiscimi. Prendi il mio respiro in un ultimo fatale bacio. L'hai fatto davvero, hai affondato il tuo addio. A pugni chiusi mi hai già cancellato dalla tua vita.